Salva Danaio. Le 12:17 minuti, bentrovati da Roberta Pellegata all'appuntamento di giovedì 16 giugno con Salva Danaio. Oggi chi ha stipulato un mutuo o intende accenderlo e ha dei dubbi può sciogliere questi dubbi chiedendo lumi al nostro esperto in materia. È qui con me, lo resterà fino alle 13, Roberto Nedda, responsabile marketing di Mutui Online. Bentornato. Grazie, buongiorno a tutti. I numeri per intervenire, le telefonate sono gratuite, 800 24 00 24, ma c'è anche un numero per gli sms, 349 238 6666. Affrontiamo oggi questo aspetto, peraltro sempre interessante, perché ieri il tasso Euribor trimestrale, che fa da riferimento per l'andamento di molti mutui a tasso variabile, è salito all'1,485%, massimo dal 1 aprile 2009. Come sanno i mutuatari, i finanziamenti a tasso variabile sono indicizzati non al tasso di riferimento della BCE, che ad aprile lo ha portato dal minimo storico dell'1% all'1,25%, ma quelli Euribor, che generalmente si muovono in anticipo per riflettere le decisioni future dei banchieri. E non a caso, nell'ultima riunione della Banca Centrale Europea, il presidente Trichet ha prospettato un ulteriore rialzo dei tassi per contenere l'inflazione, una mossa che potrebbe verificarsi già il mese prossimo, quindi già a luglio. Il rialzo dell'Euribor è nato da diverso tempo e, stando alle previsioni degli analisti, si tratta di un trend in crescita, ma una cosa è certa: l'Euribor ai minimi storici del 2009 e del 2010 è lontano, ed è difficile che si possa dunque tornare a quello scenario. Dunque vedremo nell'appuntamento di oggi che effetti ci saranno sui mutui a tasso variabile, come potrebbero cambiare le rate, come correre ai ripari. Ma sentiamo la nostra scheda. Cattive notizie per chi possiede un mutuo a tasso variabile. L'Euribor a tre mesi è salito ieri a quota 1,485, valore che non toccava da 2 anni a questa parte. Fino a dove si spingerà il parametro a cui sono correlate le rate dei finanziamenti variabili? La domanda è d'obbligo, visto che la scorsa settimana la Banca Centrale Europea ha lasciato il costo del denaro invariato all'1,25%, ma ha preannunciato che procederà presto a un nuovo rialzo. E con molte probabilità questo scenario si realizzerà già il prossimo mese di luglio. L'effetto sui mutui dunque si farà presto sentire e sarà di un certo impatto soprattutto per chi, approfittando dei tassi ai minimi negli ultimi anni, ha stipulato contratti di lunga durata. Allo stato attuale, l'aumento medio per famiglia della rata su base annua sarà compreso tra i 130 e i 200 euro. Sembra così essere arrivato al termine il periodo favorevole di cui hanno finora goduto coloro che stanno rimborsando questo tipo di finanziamento. Mutuatari che dovranno prepararsi a rate via via sempre più alte e che pertanto potrebbero iniziare a prendere in considerazione l'opportunità della rinegoziazione o eventualmente la decisione più radicale di un passaggio al mutuo a tasso fisso tramite surroga. Tra poco parliamo della rinegoziazione della surroga. Prima, Roberto Nedda, speriamo anche bene, c'è da dire. Questo aumento delle rate del tasso variabile è ineluttabile? Sì, per il fatto stesso che la tendenza dopo i minimi a cui abbiamo assistito per 2 anni è di un lento e graduale rialzo dei tassi, anche se poi non sarà nel corso del tempo eccessivo, si potrebbe ipotizzare nell'arco di un paio d'anni un 2 punti indicativi, quindi riportandosi verso una soglia che poi è normale per i tassi di interesse. E come lo stesso Trichet della Banca Centrale Europea ha già annunciato a giugno, già all'inizio di luglio, il 7 di luglio, quando ci sarà l'ulteriore riunione della BCE, ci potrebbe essere questo altro 0,25 in più. Poi non è detto che ce ne debbano essere degli altri a brevissimo, perché comunque fino a che l'economia in generale europea non si riprende adeguatamente, è difficile aumentare eccessivamente i tassi, perché si potrebbe poi frenare la ripresa economica stessa. Però sicuramente l'orizzonte a breve è che i tassi possano ancora risalire lentamente, e non a caso, come dicevi anche tu prima in apertura, giustamente l'Euribor anticipa questi aumenti, e per cui si è già portato a ridosso dell'1,50, almeno l'Euribor a 3 mesi, l'Euribor a 1 mese è ancora intorno all'1,30, ma la tendenza è comunque che nell'arco di 1 mese al massimo gli Euribor gravitino intorno all'1,50 o addirittura all'1,70, ipotizzando che da qui alla fine dell'anno ci possa essere un ulteriore incremento. I rincari I rincari per le rate e per le famiglie di cui abbiamo sentito nella scheda sono verosimili? Possiamo fare qualche esempio? Sì, indicativamente ogni 0,25 di aumento del tasso su mutuo, se ipotizziamo un importo di mutuo da 100.000 euro, l'effetto sulla rata mensile varia dai 10 ai 13-14 euro a seconda della durata del mutuo. E l'effetto è minore se il mutuo dura poco, perché matura meno interessi; se invece la durata è molto più lunga, fino ad arrivare magari ai 30 anni, c'è qualche euro in più al mese. E quindi effettivamente un singolo aumento da 0,25 comporta un incremento di spesa che va proprio tra i 100, i 150 fino anche ai 200 euro. Ovviamente poi, se nel corso dell'anno ci sono più aumenti, questo effetto è ancora maggiore. Si avrà gradatamente, quindi man mano che l'Euribor aumenta, però rispetto all'inizio dell'anno, da qui a dicembre, la rata effettiva mensile di chi ha un mutuo a tasso variabile potrebbe essere cresciuta anche di 200 o 300 euro. E i rincari scattano da subito? I rincari scattano da subito, soprattutto il rincaro varia da banca a banca, perché non c'è un criterio unico con il quale viene applicato il calcolo del tasso per il mutuo. Ogni banca decide quando rilevare il valore dell'Euribor, per cui ci sono banche ad esempio che aggiornano il valore dell'Euribor, e quindi del tasso e della rata, all'inizio di ogni mese, oppure semplicemente alla scadenza effettiva come data di calendario della rata, o altre ancora che prendono una media del mese precedente. Quindi in realtà quello che succede è che chi ha un tasso variabile vedrà mese dopo mese la sua rata modificarsi un pochino, non ci saranno dei salti improvvisi, ma ogni mese la rata sarà leggermente più alta. Questo per quanto riguarda i variabili. Gli effetti invece sul tasso fisso? Sul tasso fisso, ovviamente, per chi già ce l'ha, sono nulli, per il fatto che, essendo tasso fisso, rimane comunque quello concordato inizialmente. Viceversa, per chi il mutuo dovesse ancora farlo, volesse ipotizzare di cambiarlo e quindi deve valutare quelli che saranno i tassi fissi sul mercato, chiaramente questa tendenza all'aumento del costo del denaro influirà anche sul costo del denaro di lungo termine, perché i tassi fissi vengono parametrati non agli Euribor ma a degli altri indici che si chiamano IRS, che misurano il costo del denaro di lungo termine, e anche questi inevitabilmente, se la prospettiva del costo del denaro è quella dell'aumento, via via andranno a risalire. Al momento questi IRS sono intorno al 3,70, e quindi i migliori tassi fissi del momento sono ancora sotto il 5%, per alcune banche, per altre sono già sopra il 5%, ma quello che ci si può aspettare è che da qui a un paio di mesi, indicativamente, il livello medio di tassi fissi vada dal 5% in su, e questo è quindi il livello sul quale si dovranno confrontare o fare i calcoli coloro che eventualmente siano interessati a una soluzione di questo tipo. Ne parliamo nel corso della puntata. Adesso in primo piano rinegoziazioni e surroghe. Tra l'altro c'è un ascoltatore che penso ci darà il là, è Stefano da Firenze. Ci ha raggiunto all'800 24 00 24, potete prenotarvi, e stanno già arrivando i messaggi al 349 238 6666. Stefano, ben trovato. Salve, buongiorno. Ci dica. Senta, avevo bisogno di informazioni. Innanzitutto tengo a precisare che io consulto spesso il sito dei mutui online, che è un sito molto chiaro, in cui simulo sempre dei mutui a tasso fisso. Mi spiego, allora, senta, io ho stipulato nel 2009 un mutuo a tasso variabile con il credito valtellinese, con un Euribor a 3 mesi più uno spread dell'1,25. La rata però viene decisa da me, nel senso io tutti i mesi, a costo gratuito, posso cambiare la rata, quindi quando mi posso permettere pago 100, quando mi posso permettere pago 50, tanto per capire, no? Visto che i tassi erano bassi, pagavo la rata più alta per abbattere il capitale. Io ho fatto delle simulazioni sul sito Mutui Online e ho verificato che, se dovessi fare la surroga, è completamente gratuita, se non mi sbaglio c'è un indice sintetico di costo ISC intorno al 4,90-4,80, ora mi permetta l'errore, La mia domanda è questa: vorrei avere un giudizio spassionato in tal senso. È conveniente in questo momento passare da un variabile a un fisso, o è bene aspettare ancora? Grazie Stefano. Grazie a Stefano innanzitutto per la fiducia, per l'utilizzo del sito, che effettivamente permette di fare tutta una serie di calcoli per orientarsi. E sarebbe importante per la risposta capire qual è la durata residua del mutuo. C'è ancora Stefano? Dica. Sì, sono qua. Allora, le spiego tutto. Allora, io per fortuna mi sono potuto permettere di pagare, diciamo, la rata doppia, quindi se dovessi pagare la rata doppia, le lo faccio breve, allora, io dovrei pagare in teoria 500 euro al mese, sono 100.000 euro in 20 anni, pagando 1.000 euro al mese, praticamente che cosa ho fatto io? Ho abbattuto gli anni, in poche parole, da 20 a 10. Ah, perfetto. Benissimo, quindi per il momento me lo posso permettere, però per non trovarmi a sorprese, bene, dicevo, potevo fare un fisso a 10 anni, però praticamente il tasso mi salta. Ora, benissimo Stefano, Roberto Ned adesso ha tutti gli elementi per rispondere. Sì, direi che grazie proprio al fatto di aver accorciato così tanto la durata e quindi avere ormai davanti una durata di 10 anni, il passaggio a un fisso in questo momento non sarebbe consigliabile nel suo caso specifico, per il fatto che con un variabile comunque lei parte da un tasso che è di almeno 2 punti più basso rispetto al fisso che pagherebbe, e i valori che citava prima sono effettivamente corretti, sono quelli che al momento rappresentano le migliori offerte sui fissi, cioè quasi già al 5%. Dato che l'orizzonte di aumento potenziale dei tassi potrebbe, dicevamo all'inizio, portare a un incremento di almeno un paio di punti, ma nell'arco di un paio d'anni, quindi lei avrebbe comunque, nel caso passasse un fisso, da subito una rata più alta, che invece si troverebbe a dover affrontare solo tra un paio d'anni. E soprattutto, avendo una durata residua così breve, le bastano ancora pochi anni di rimborso, anche se a tasso variabile, per arrivare vicini al momento in cui lei comincerà a pagare più che altro capitale, e quindi anche gli eventuali incrementi futuri del tasso di interesse incideranno molto meno in termini di peso di interessi passivi. Diverso sarebbe il caso se il mutuo di Stefano avesse ancora una durata di 20-25 anni davanti, per cui si potrebbe ragionare di mettersi in sicurezza, ma onestamente al momento lo scenario dei tassi e dell'economia non è tale da lasciar pensare che in futuro gli Euribor possano stabilmente fissarsi su valori superiori ai fissi che si potrebbero avere adesso. Quindi nel caso specifico consiglierei a Stefano di tenere ancora il variabile, monitorare la situazione, e se tra 1 o 2 anni si dovessero configurare degli scenari molto diversi da quelli attuali, ripensare questa cosa. Ma grazie proprio alla durata breve non ce ne dovrebbe essere bisogno. Salva Danaio. È il mutuo, il pensiero peggiore del mondo, che ho intorno, tasso fisso, con l'Euribor c'è chi sta impazzendo. L'Euribor, i mutui, oltre ad essere argomenti costanti, trasmissioni come Salva Danaio ormai sono anche oggetto di canzoni d'autore come questa di Bruno Risas, la cui voce ha aperto la seconda parte di Salva Danaio. Con me c'è sempre Roberto Aned, responsabile marketing di Mutui Online, e su chi ha stipulato un mutuo per la casa a tasso variabile c'è sempre questa spada di Damocle del tasso Euribor. Ecco Roberto Aned, non so se hai sentito il testo, no? Il protagonista di questa canzone, che si intitola Come stai, spiega di aver scelto il tasso fisso perché l'Euribor ormai sta facendo impazzire tutti. È un consiglio che chi in questo momento ha bisogno di accendere un mutuo dovrebbe seguire oppure no? Le leggo a questo proposito un messaggio arrivato al 349-238-6666. Laura scrive: devo stipulare un mutuo da 100.000 euro, durata anni 20. Le banche consultate mi consigliano il variabile. È corretto? In realtà la valutazione va fatta rispetto a quella che è la situazione reddituale del singolo richiedente. Non c'è una risposta che va bene per tutti, perché sicuramente... Neanche con queste chiare di luna, no? No, perché se uno ha la fortuna di avere un reddito elevato e di dover fare un mutuo la cui rata incide poco sul proprio reddito, anche in caso di aumenti futuri del costo del denaro, mediamente, storicamente, il tasso variabile è quello che poi, anche nel lungo termine, fa maturare meno interessi. Però questo è un discorso freddo, razionale, di pura convenienza economica, e appunto che si può permettere chi, qualunque chiaro di luna si presenti, prolungato anche solo momentaneo, sa di avere le spalle robuste da questo punto di vista. Chi invece, non solo per questioni reddituali, ma anche per propria psicologia e tranquillità, voglia stare più tranquillo, certamente deve invece scegliere un'opzione diversa, come appunto quella del tasso fisso, ovviamente fino a che i tassi fissi risultano convenienti. Tuttora, dicevamo, abbiamo dei tassi sotto il 5%, vicini al 5%, che storicamente è una soglia di assoluta convenienza per quanto riguarda i tassi fissi, per cui chi sceglie un fisso inevitabilmente sa di dover pagare qualcosa in più nel corso della vita del mutuo in termini di interessi, ma il prezzo della sicurezza. Ovviamente utilizzare l'auto costerebbe meno se avessimo la possibilità di girare senza assicurazione. È un costo che, soprattutto se l'auto è nuova, incide in maniera non indifferente. Però se poi succede qualcosa, c'è un imprevisto, tutto graverebbe sulle nostre tasche. Quindi questa è la differenza fondamentale che bisogna valutare. Va bene. 800 24 00 24. Da Milano ci chiama Dario. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, io volevo porre queste due domande. Uno è, al di là del fatto che la scelta sul mutuo variabile viene sempre fatta dalla persona che reputa che tutto sommato è ancora comunque conveniente, nel senso che penso che rimanga la discrepanza tra il fisso e il variabile stesso, e qui vorrei capire a un certo punto se penso che il fisso, se non parliamo ovviamente di 20 anni fa, si aggirava insomma a mutui alti un po' verso il 6-7%, penso che oltre il 6,5-7% in genere non penso che sia mai andato, se non parliamo di anni ovviamente molto precedenti. Io in questo momento volevo capire questo: uno, la paura del famoso Euribor, dove le banche hanno fatto per la prima volta nella storia della finanza quello che volevano, indipendentemente da quello della BCE. E se questa cosa è una cosa che si può, a vostro avviso, ripetere, ovviamente senza avere la sfera di cristallo. Poi, per entrare un attimino un po' nel dettaglio, è questo: io ho contratto un mutuo a tasso variabile nel 2007, in questo caso non era una banca fisica, ma era una banca online, e lo spread che in questo momento io ho è dello 0,60, per cui è uno spread ancora molto conveniente. Analizzando un attimino le offerte delle varie banche, perché ho provato comunque anch'io a vedere se era il caso comunque di cambiarlo, e ho visto che hanno alzato già parecchio il loro spread, per cui dagli 1% che si arrivava o 0,90 che si arrivava un po' di tempo fa. Sì, Dario, la invito alla sintesi perché abbiamo altri ascoltatori, sì, dopo di lei, grazie. Perfetto, allora la domanda poi fulcro è questa qua: voi pensate che nel giro di 2 anni o 3 anni l'Euribor arriverà a livelli ancora, cioè si alzerà di 2 punti, oppure possiamo andare a livelli molto più alti? La ringrazio. In realtà aveva già risposto in sua trasmissione Roberto Anedda. Sì, però possiamo vale la pena dare un ulteriore dettaglio, perché, come diceva giustamente Dario, purtroppo per quanto riguarda i tassi di interesse, l'economia, la sfera di cristallo sarebbe utile, ma purtroppo non c'è. E chiunque millanti delle previsioni attendibili su orizzonti che vadano oltre i 12 mesi un po' prende in giro tutti, perché ci possono essere così tanti elementi improvvisi e imprevedibili che cambiano lo scenario, dovendo ragionare in termini le previsioni del tempo, sì, esatto, a lungo termine, no? Diciamo che se dobbiamo prevedere a lungo termine che tempo fa d'estate, l'unica cosa che possiamo dire è farà caldo rispetto a quello che c'è d'inverno, però dire esattamente quanti gradi, sarà un'estate caldissima, cioè, se lo si dice 3 mesi prima, onestamente fa un po' ridere. Stessa cosa per i tassi, quindi dobbiamo ragionare in termini di probabilità e di scenario al momento valutabile. Come dicevo prima, lo scenario più plausibile è che nell'arco di 2-3 anni i tassi rispetto ai livelli attuali salgano di circa 2 punti e mezzo, quindi riportare il costo della BCE intorno al 3-3,5%, che poi è un livello che la BCE ha sempre considerato neutro, cosiddetto, mentre se poi si andasse oltre andremo già in un'area restrittiva. Ovviamente rimangono aperte le incertezze legate al fatto che possano ripresentarsi situazioni simili a quella del 2007, quando per eventi economici particolari, in quel caso fu la crisi delle banche americane per i mutui subprime, ma in futuro potrebbe essere l'instabilità della Grecia o di altri paesi, o instabilità del Medio Oriente, come abbiamo visto all'inizio di quest'anno, potrebbero portare anche a delle fiammate del costo del denaro, quindi con l'Euribor più alto anche di questi livelli. Normalmente però queste fiammate sono fiammate di breve termine, cioè che possono durare alcuni mesi, magari anche, se non sempre i massimi, fino ad un anno, però difficilmente si può ipotizzare che l'Euribor, il costo del denaro in generale, si stabilizzi regolarmente e per anni e anni su livelli molto elevati. C'è un ascoltatore che ci scrive a fare una domanda sul percorso inverso, cioè Lorenzo dice: vorrei fare una domanda, mutuo tasso fisso al 5,7%, durata residua di 5 anni, ha senso passare a un variabile? Potrebbe essere interessante, perché effettivamente 5,70 è anche un tasso non bassissimo, cioè storicamente rimane comunque nella fascia bassa. Diceva prima Dario che i tassi fissi non erano mai saliti oltre il 6,5-7%, effettivamente dal 2001 che non vediamo tassi fissi sopra tali livelli, perché allora arrivarono anche all'8-8,5, ma erano ancora in una fase calante, dopodiché sono rimasti più bassi. 5,70 non è un tasso da poco, passare a un variabile potrebbe sicuramente improvvisamente far cadere il tasso al 2,5-3, però ancora una volta c'è il problema della durata breve, dato che rinegoziare, o meglio modificare il tasso, vorrebbe dire ripartire con un nuovo piano d'ammortamento, anche se solo su 5 anni. Bisogna proprio fare un calcolo per vedere quanti interessi ancora pago con questo tasso fisso, dato che ormai le rate saranno quasi tutte di capitale, e viceversa, anche se solo per 5 anni, quanti ne pagherei se avessi un tasso variabile, anche se magari non salirà fino al 5,70. È una valutazione da fare magari insieme a dei consulenti o con degli strumenti di calcolo, anche per questo abbiamo degli strumenti sul sito di Mutui Online, perché al di là della differenza di tasso, che sarebbe forte, anche più di 3 punti, ci sono, c'è vari questo meccanismo in mezzo da considerare. Luigi da Firenze, buongiorno. Luigi? Pronto? Deve spegnere la radio cortesemente. Sì. Ce la fa? Buongiorno. Buongiorno. Sì. Sente? Malissimo Luigi, deve spegnere la radio e prendere la cornetta del telefono. Tra poco ripristiniamo la comunicazione con lei. Andiamo a Pesaro da Cristiano. Pronto? Cristian, buongiorno. Buongiorno Cristian. Tanti complimenti, me li meritate veramente, perché fate una trasmissione molto utile. Meno male, grazie molte. Quest'oggi mi sono ritrovato a sentire una copertina, però non, diciamo, fuori dalla linea che solitamente voi tenete, perché mi sembra che abbiate alzato forse un'eccessiva polvere sulla situazione dei mutui, perché se oggi valutiamo quello che sono stati gli andamenti dei tassi sino ad oggi, chi ha stipulato un tasso fisso si sarebbe dovuto mordere le mani, perché comunque ha pagato dei tassi improponibili rispetto ai tassi di mercato di un variabile. Ad oggi, anche con una possibilità di incremento, come è stato detto, di 2 punti sull'Euribor, comunque si andrebbe a pagare un tasso inferiore rispetto a quello che potrebbe essere un tasso fisso di 5-6, o come nel caso mio, io l'ho stipulato il mutuo nel 2003, anche in quel caso ad oggi mi trovo a ripagare quasi un 40% in meno di rata, e l'ho pagata anche nei momenti di picco di tasso attorno al 2008, quando sono stati proprio i tassi al momento più alto, pagavo all'incirca 70-80 euro in meno rispetto a quello che avrei pagato se avessi fatto nel 2003 un tasso fisso. Ah sì, Roberto, quindi, oggi, è d'accordissimo con lei. Quindi ad oggi, secondo me, non è neanche ipotizzabile, neppure, difatti, dopo questo è forse una questione di punti di vista, però ad oggi, come forse anche in precedenza, da quando c'è l'euro, proporre un tasso fisso è esclusivamente una questione di guadagno della banca intermediaria, perché oggi come oggi non ha senso proporre un tasso fisso. Esclusivamente il discorso che giustamente diceva prima l'esperto riguardo la tranquillità psicologica, che però viene pagata a caro prezzo, ma veramente a caro prezzo, da parte di chi sostiene il mutuo a tasso fisso, perché parliamo di diversi spread, punti di spread rispetto a quello che è un tasso variabile. Io la ringrazio Cristiano per questo intervento. Dicevo che Roberto Netto continuava ad asserire con la testa, quindi non la faccio neanche parlare, perché ci sono le informazioni sul traffico e torniamo dopo per dare una risposta a Marco da Milano. Anche lui, come gli altri, ci ha chiamato all'800 24 0024, numero verde gratuito. Continuate a prenotarvi oppure a scrivere un messaggio al 349 238 6666. Bentornati a Salvadanaio, ultima parte di questo appuntamento dedicato ai mutui, un argomento che interessa e del resto coinvolge moltissime persone. Abbiamo sollevato un polverone, diceva poco fa il nostro ascoltatore, però in effetti non tutti sono in grado poi di affrontare dei rialzi delle rate, delle volte le famiglie, insomma, cadono in difficoltà, ecco, questo per difendere anche la scelta del tasso fisso, che a volte può essere più oculata, insomma, per qualcuno. Sì, è quello che dicevamo prima e che ribadiva, secondo me, giustamente Cristian. Spesso la scelta del tasso fisso di per sé è una scelta di sicurezza anche psicologica, ma anche di chi, per un motivo o per l'altro, vuole essere sicuro, data l'imprevedibilità degli andamenti economici nel lungo termine, che mai nei suoi 20 o 30 anni di mutuo si possa trovare con delle rate fuori controllo. Dicevamo anche prima, mediamente il fisso costa poi di più, la sicurezza si paga sempre, non solo nel campo dei mutui ma negli altri. Ovviamente, tra l'altro, il fisso, avendo delle rate più alte, limita anche maggiormente l'accesso al finanziamento, perché a parità di importo di mutuo la rata di un variabile è mediamente più bassa, quindi ci si può permettere lo stesso mutuo anche se il reddito di partenza è più basso. Occhio però appunto che nel lungo termine, se non si fanno bene i conti, poi si rischia di trovarsi in difficoltà nel momento sbagliato. Marco da Milano, buongiorno. Buongiorno, vi ringrazio di avermi chiamato. La mia domanda è molto semplice. Ho acceso un anno e mezzo fa un mutuo ventennale a tasso variabile. Ora, visto quanto manca ancora alla fine, vorrei avere un consiglio, un'idea sulla convenienza passare a tasso fisso o restare al tasso variabile che ho attualmente. Grazie. Ripetiamo un po' quello che dicevamo prima. Sì, da esatto, quello che hai già ripetuto. Sì, no, ma per ribadire che quello che ci si può aspettare è che almeno con il suo variabile, adesso al di là dello spread specifico che le viene applicato, potrà avere un tasso più basso con il variabile rispetto al fisso che potrebbe ottenere adesso, almeno per un paio d'anni. E poi si aprono scenari più difficilmente valutabili, perché mediamente il fisso rimarrà sempre quello e quindi avrà sempre lo stesso costo. Il variabile in certi momenti per gli anni a seguire potrebbe risultarle più basso e avere ogni tanto anche dei picchi più elevati, quindi quello che è più probabile è che nella realtà, nel costo complessivo delle due operazioni, lei si troverà tra 20 anni ad avere un costo sostanzialmente simile a livello di interessi passivi. Ovvio che un fisso adesso, tuttora disponibile, a tassi ancora interessanti, dicevamo intorno al 5%, può essere una buona polizza di sicurezza contro qualunque incertezza economica che al momento non è valutabile, o anche semplicemente una sua propria tranquillità personale. Non a caso c'è anche disponibile fino alla fine dell'anno prossimo questa rinegoziazione a tasso fisso che è stata introdotta dal decreto sviluppo sui mutui, tra l'altro estesa adesso per mutui fino a 200.000 euro e per reddito certificato ISE fino ai 35.000, che risulta anche più conveniente perché il tasso fisso massimo è tarato su un IRS di 10 anni e in questo caso ad esempio si avrebbe il vantaggio anche di fissare un tasso fisso ancora inferiore rispetto a quello che si otterrebbe sul mercato. Leggiamo qualche messaggio. Lorenzo: è chiaro, variabile o fisso piove sempre sul bagnato, bisogna avere un alto reddito. Un altro ascoltatore, Pier Giovanni da Padova: con un differenziale di 3 punti, se nei primi 2 anni il tasso variabile resta inferiore al fisso, è molto più conveniente il variabile. Provato per un mio cliente, assicura il nostro ascoltatore al 349-238-6666. Ho una domanda che così varia un po' l'argomento di oggi, anche se sempre sui mutui. Allora, l'ha mandata... abbiamo un azionista, Lorenzo da Genova. Sono un azionista di mutui online. Che cosa comporta un aumento dei tassi per la società? Questo è interessante, perché poi effettivamente mutui online è una società quotata alla Borsa di Milano, quindi c'è anche chi giustamente si preoccupa. Ma nella realtà non ha degli effetti particolari, soprattutto non ha effetti negativi, perché mutui online come società non ha indebitamenti, quindi non deve preoccuparsi del costo del denaro per andare avanti, viaggia su risorse sue ed è redditizia. Per quanto riguarda invece il mercato, semplicemente si modifica quello che può essere il mix ideale di mercato per chi deve scegliere un mutuo, e quindi a maggior ragione, anzi, c'è uno stimolo a ricercare confronto, consulenza indipendente, quale quella che offre Mutui Online, proprio per affrontare con la scelta migliore anche questo tipo di scenario. Quindi sostanzialmente è fortunatamente per l'azionista neutro o positivo. Tra poco andiamo da Federico da Udine, che ha una domanda su un aspetto che ancora non abbiamo affrontato. Prima vuole leggere il messaggio che è stato il primo ad arrivare oggi, quello di Andrea, che dice: io ho già un mutuo, posso cambiare casa mantenendo lo stesso mutuo con le stesse condizioni pagando solo la perizia? No, questo non si può fare, per il semplice fatto che al di là della perizia c'è anche necessità di iscrivere l'ipoteca su un nuovo immobile, e quindi a tutti gli effetti bisogna ripassare dal notaio, fare tutta una nuova procedura, quindi è come riaprire un mutuo. Non a caso con la surroga si può cambiare mutuo e cambiare banca, ma la casa rimane sempre la stessa. Se si cambia l'immobile oggetto di garanzia bisogna un po' rifare tutto. Federico, grazie per aver chiamato Radio 24. Buongiorno, grazie a voi. Io volevo chiedere se mi date qualche informazione relativamente a un'ulteriore proposta, oltre al variabile e il fisso, che le banche fanno, che è il mutuo con cap. Grazie. Ottima domanda. Prego. Mutuo con cap, tanto per spiegarlo velocissimamente, è un mutuo a tasso variabile che però definisce anche un livello massimo, appunto cap in inglese, purtroppo si usano sempre questi termini inglesi in finanza, per cui si ha la garanzia che il variabile, qualunque sia l'andamento del costo del denaro, non supererà quel livello massimo, quindi quello è il livello massimo di tasso che pago. È stata una soluzione di mutuo molto gettonata tra il 2009 e il 2010, quando questi cap erano fissati intorno al 5 e il 5,5. Adesso, per effetto dell'iniziale rincaro del costo del denaro, queste soglie tendono ad essere via via più alte, quindi le migliori sono adesso il 5,70, ci sono alcune offerte di mutuo che però scadono veramente a brevissimo, cioè a giugno, che sono ancora tra il 5,25 e il 5,40, che sono delle buone soglie. Soglie tra il 5,70 o addirittura il 6% sono sicuramente meno tutelanti, perché lasciano comunque ampio spazio di aumento del tasso variabile fino a quel livello, e non è detto che ci arrivino, e soprattutto è minore il margine di protezione, perché è più difficile che i tassi vadano addirittura oltre o rimangano oltre quel livello lì, dato che si tratta anche di variabili che ai quali vengono applicati degli spread più elevati, mediamente di mezzo punto. In questo momento piuttosto conviene veramente prendere direttamente un fisso, o come altra alternativa che diverse banche stanno cominciando a cavalcare, anche se ancora poco riscoperte dai clienti, i tassi misti, cioè quelli che permettono ogni 2-3 anni, nelle migliori soluzioni, di passare da fisso a variabile e quindi adattare un po' meglio il tasso sul proprio mutuo a quelle che saranno le mutate condizioni di mercato. E dopo aver tanto difeso il mutuo a tasso variabile, voglio concludere questo appuntamento con la considerazione di Paolo da Bergamo, che scrive: non si capisce come mai tutti consigliano il variabile, poi, come ci è successo, lo Stato deve intervenire per aiutare chi ha sottoscritto il variabile. La sicurezza del fisso la paga l'individuo, l'incertezza del variabile la paga la collettività. Sono d'accordo. Io ringrazio tutti i nostri ascoltatori, mi scuso per le risposte che non siamo riusciti a dare, ma insomma il tempo è quello che è. Roberto Nedda, molte grazie. Grazie a voi, un saluto a tutti, a presto. www.mutuoonline.it. Grazie anche a Gaia Romani in redazione, grazie a Pietro Lacorte in regia, naturalmente a voi per l'ascolto. Salva Danaio torna domani alla stessa ora, ci sarà Valeria De Rosa, e Deborah Rosciani invece tornerà lunedì. Una buona giornata da Roberta Pellegatta, vi lascio con il GR. Salva Danaio.